Presidente. Onorevole Sandra. Presidente. Lucio Perché. Presidente. Lusso Luca. Simone Antonino. Presidente. Allegrenza Alessandra. Presidente. Marco Giuseppe. Marco Giuseppe. Girasole Capirica. Presidente. Gianni Lava. Presidente. Gallo Salvatore. Presidente. Spada Carmela. Isidro Giulia. Cancello Prato. Presente. Donani Salvatore. Presente. Martina Santa. Presente. Tutti presenti. Ho visto la tua parola di Andrea Giulia. Prima di iniziare il consigliere Mangiello mi chiedeva se è possibile registrare la seduta, l'ho autorizzato e un'altra volta sono stato informato appunto della morte di un nostro caro cittadino, quindi da parte del consigliere Mangiello c'è la volontà di voler dire qualcosa. Sì, grazie Presidente. Io volevo ricordare il nostro concittadino Corrado Giuliano, era uno degli spettatori più presenti di questo Consiglio Comunale, oltre ad essere una persona appassionata di politica, molto attiva a livello sociale e politico, personaggio comunque abbastanza conosciuto nel nostro paese. Niente, chiedevo solamente di ricordarlo con un minuto di silenzio, avendolo anche conosciuto in modo più stretto, perché comunque abbiamo fatto attività assieme, quindi sentivo in dovere questa cosa. Grazie. Grazie. Allora, cominciamo con il primo punto. Siamo per la nomina degli scrutatori. Pongo alle votazioni come scrutatori il consigliere Busso, Allegrezza e Giardina. Chi è d'accordo, resti seduto, chi non lo è, si alzi. Approvato. Andiamo all'approvazione del verbale della votazione precedente. Chi chiede di parlare? Pongo la votazione. Approvazione del verbale della seduta precedente. Chi è d'accordo, resti seduto, chi non lo è, si alzi. Approvato. Andiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'elezione del nuovo presidente del consiglio di Palazzolo. Quindi la parola in capo al gruppo. Allora, in qualità di capo gruppo della Commissione di Palazzolo, proponiamo come Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere Busso. C'è un microfono oppure parlo? Sì, ti do questo. Noi più che un'indicazione di nomi volevamo aprire una breve discussione politica perché ci sembra doveroso, in quanto sia la scorsa volta abbiamo appreso con grande rammarico e anche non capiamo le motivazioni, dato che non sono state date, ma solo le dimissioni del Presidente senza la dottoressa Trombatore, senza alcuna motivazione a nostro avviso valida. Abbiamo già detto che per noi rappresentava un buon Presidente che nel bene e nel male è stato super partes. Quindi, non capendo se non lasciando presagire ad altro quella che è stata questa sorta di dimissioni da parte del Presidente senza nessuna motivazione seria, anche perché riusciva benissimo nel suo ruolo, e non condividendo comunque quello che è stato il modus operandi di questa amministrazione nel proporre tale nome, quindi capacità da togliere al consigliere Sicona, perché non è personale alla persona, la fate specie al consigliere. Ma non ci è sembrato comunque giusto la motivazione che sta alla base, anche perché non l'abbiamo ben capita, se non che lascio pensare, solo un soddisfacimento di accordi preelettorali, indipendentemente dalle qualità, dal possesso, dai voti comunque presi che legittimassero che il ruolo, in questo caso, della dottoressa Salvatore. E pertanto non ci discostiamo da questo modus operandi, ci poteva sorprendere da parte vostra, ma così non è, perché voi non siete abituati ad operare in questa maniera, che ci fosse comunque una scelta condivisa, un confronto, delle motivazioni, cose che sono state date, e quindi magari forse si sarebbe potuto comunque giungere a una sintesi, anche a scegliere un nome comune, chiaramente confrontandoci, ma questo non è di vostro uso, il confronto, il dialogo, l'apertura. Ci saremmo aspettati, sarebbe strano pensare un eufemismo che ci fosse un'apertura, così come avviene in tutti i governi democratici nel bilanciamento dei poteri da parte dell'opposizione, proprio per la trasparenza e per l'imparzialità di questo comune. Ma ci rendiamo conto che voi, per quella teoria che avete sempre sottolineato, tipo assoluta tutto, abbiamo il consenso e facciamo quello che vogliamo, continuate ad operare nella stessa maniera, che non ci distacchiamo. Perché non c'è dubbio che in questi ultimi mesi, anziché pensare a quelli che fossero i reali problemi del paese, abbiamo assistito a una sorta di bagaglio, una sorta di corsa al potere tra rimpasti, cariche di assessori, nomine, non nomine. Tanto è vero che è stato così simpatico quello che ha partorito sotto notare il manifesto che abbiamo visto uscire fuori simpaticamente, anche così in senso ironico, del bambino, dei due bambinetti. E la Madonna! Però detto questo, non ci sembra veramente, ci distacchiamo da questo modo, anche da questa visione di concepire quello che è un dialogo propositivo che più volte è venuto da parte di questa opposizione. Quante volte abbiamo proposto, non ultimo quello del carnevale, quante sere anche a dire vogliamo collaborare e poi questi sono i prodotti, invece c'è stata una chiusura, continuando ad operare alla stessa maniera, non tenendo conto, anzi quasi quasi essendo un po' infastiditi di questa perdita di tempo nelle varie proposte, tanto è vero che tutti si dovranno capire di questo carnevale, le tante critiche. Non c'è stato mai un confronto, ogni volta che lo chiedevamo o veniva in aula, quasi quasi sì, ci saremmo incontrati. Per quanto riguarda le proposte sui rifiuti, rifiuti zero, voi non se ne è fatto nulla. Ogni volta messi qui, ma non ci sembra corretto. In questo caso siamo... In questo caso ritengo... No, il nome, noi, visto che comunque... No, la proposta è che visto che c'è nella, non avviene questo rispetto di un ruolo, ognuno voterà secondo la propria, quello che ritiene il consigliere di rappresentare, noi voteremo il nostro consigliere di opposizione. Che... Prego. Posso, Presidente? Grazie. Per rimanere sempre in tema alla prossima elezione del Presidente del Consiglio, in tutte le democrazie che si ritengono tali si cerca un bilanciamento dei poteri. In alcuni casi per disposizione legislativa, in altri per semplice buonsenso, nell'interesse della comunità cittadina nel nostro caso. Quando si vuole amministrare con trasparenza, la proposta di affidare la Presidenza del Consiglio al gruppo di opposizione in termini di democrazia non è velleitaria secondo il diritto democratico e di interesse comunale, se si prende l'impegno che l'incarico sarebbe a titolo gratuito per la scelta del gruppo e di garanzia per l'intero consiglio. Una garanzia di imparzialità in questo consenso consiliare in parte raggiunta dopo tanti sforzi, anche se non in modo soddisfacente. Si comprende che parlare di bilanciamento di poteri è cosa difficile in questo Consiglio e a questa maggioranza. Anticipando la scenografia di quello che avverrà a breve, la elezione di un Presidente di parte, senza alcuna discussione consiliare, frutto di una prova di muscoli di chi conta realmente nel Comune e di quello che ci sarà da contorno, la rotazione ponderata di alcuni assessori senza valutazione alcuna sulla professionalità o capacità acquisite nel settore che andranno a ricoprire. Si concretizzano gli accordi preelettorali basati su concorrenza interna a premi come il carnevale, ma a differenza dello stesso non sulla qualità ma sul numero dei voti riportati. Oggi è arrivato il momento di sigillare, di ottenere e dare quanto concordato alla faccia dei cittadini elettori in favore di interessi personali e strettamente personali, caro Presidente. Se la logica portata avanti da questa maggioranza fosse solo quella del premio al maggior numero di voti e non quella di interessi particolari, di strategie politiche o di esigenze varie, si dovrebbe spiegare ai cittadini sostenitori il perché si è proceduto alla sostituzione della più votata dei cittadini stessi. Non bastano le dimissioni rese per spirito di gruppo. Sapete benissimo che non abbiamo lesinato critiche ed osservazioni alla Presidente uscente, con l'obiettivo di riportare un dialogo il più possibile democratico in questo Consiglio e di portare la maggioranza consigliare, a volte, consentiteci, troppo silenziosa verso il dialogo su temi di interesse comune e pubblico. Non dimentichiamo il nostro ruolo di opposizione. Il nostro non è pertanto un incensare la Presidente uscente, ma semplice analisi comportamentale dell'attuale maggioranza, dal suo nascere ad oggi, con una turnazione discutibile e che farà discutere. Il vostro è uno stare assieme, non perché credete in un progetto, in un'idea politica che favorisca nella nostra comunità, che favorisca praticamente la nostra comunità palazzolese nello sviluppo economico e politico. È solo politica dei compensi e dei premi a chi ha illuso di più i cittadini. Cittadini che avete dimenticato. Pensiamo sia il modo più significativo per contrastare avvicendamenti e turnazioni in cui non è il merito ad essere stato valutato. Non solo le manifestazioni andate in fallimento e suggerite i cambi, ma semplicemente gli accordi interessati alla base di una fruttuosa campagna elettorale. Grazie. Presidente, grazie. Volevo aggiungere anche io qualcosa. Ovviamente aspettarsi un'apertura, come sollecitava il consigliere Spada, dall'amministrazione così chiusa è pura utopia. Non veniamo coinvolti nelle discussioni serie sulla città, figuriamoci su un argomento come questo. E il carnevale è una dimostrazione. 2 anni e mezzo fa la scelta di questa maggioranza di occupare tutto l'occupabile, quindi le presidenze del Consiglio e delle commissioni, fu giustificata dall'ampio consenso. Ci fu qualcuno che ha detto: ma avete visto quanti voti abbiamo preso? Secondo questa stessa logica, oggi non ci dovrebbe essere bisogno né di rimpasto né di fare questa discussione, perché se quei voti contavano allora, dovrebbero contare anche adesso. E poi è chiaro che di tante necessità che ha questo Paese, sicuramente non c'è quella di un rimpasto. A meno che non gli vogliamo dare un'altra lettura, prendetela in modo ironico, non offensivo. Diciamo che è la prima volta che questa amministrazione crea occupazione. Magari alle prossime elezioni facciamo, invece delle candidature, facciamo un bando per chi vuole fare, cerca una collocazione e lo proponiamo come assessore. Così lo sistemiamo e tutto. Tornando seri, è indiscutibile che questa maggioranza si regge solamente sul rispetto di accordi e promesse, non su un'idea di paese, non su progetti di cose da fare. Questa amministrazione dimostra ancora una volta di non avere un reale interesse per i problemi del paese, tranne per quelli di natura edilizia, che guarda caso è il settore più stabile, l'unico che non cambia mai, insieme all'assessorato dei record, quello che deve durare nei secoli. Capita. Comunque concludo l'intervento perché considero questo punto all'ordine del giorno e questa argomentazione una perdita di tempo per il Paese, soprattutto in assenza di un dialogo costruttivo per trovare delle soluzioni condivise. Quindi concludo dicendo che seguirò l'indicazione del gruppo, sostenendo il candidato concordato che è il consigliere di Cida. Grazie. Cerchiamo di sostenere il nostro paese. Ora andiamo al corso a Ecciata, Tipo, abbiamo davanti il carnevale, ho visto oggi su Facebook manifesti di lutto, ma che segnale diamo noi alla provincia? Noi dobbiamo attirare per i nostri commercianti, oggi dobbiamo stare in stand-by e fare un grande lavoro di raccordo quando vediamo le difficoltà. Se noi lanciamo questi messaggi all'esterno, ci freghiamo noi stessi, freghiamo i nostri contribuenti, freghiamo i nostri lavoratori, caro consigliere. Grazie. Presidente, mi scusi, però io ho una replica molto breve la devo fare. Due parole precise. E dico soltanto questo qua io al carissimo consigliere Calvi. Io sono d'accordo con lei, caro consigliere, e per questo me ne duole il cuore quando praticamente il ministro Franceschini ha praticamente posto sulla gazzetta ufficiale dello Stato italiano, premetto, forse qua non è, non, cioè Palazzo Colonna appartiene all'Italia, appartiene a qualche altro Stato, quella, dove ha messo praticamente la partecipazione ai più antichi carnevali d'Italia. E praticamente sono stati chiamati, è stato chiamato l'assessore carissimo Sandolo a partecipare praticamente in qualità di rappresentante del carnevale del Palazzo. Sì, ma non c'è andato il consigliere, giustificando cosa che non aveva i soldi per andarci. Vabbè, ora poi... E poi me lo dico, Sì, sì, io sempre sono un ubriaco perenne, ubriaco perenne. Chiede ai consiglieri nominati su di sono un ubriaco perenne. Ci dobbiamo mandare ad Alessandro Romano, mentre gli era da. No, anche perché io lo scuso descrittivo. No, sono più là, quelli non vogliono capire come. Io ci sto andando quando vogliono fare la domanda. Ok. Io devo fare tutto questo. Guardalo, no. Perché l'hai scritto così piccolo? Io l'ho scritto più grande. Io carte più piccolo. Qui, per la nulla. Sì. Vabbè, facciamo la tela prima. Ha visto? Piruccio Giulia. cenno fa così. Cappellani Salvatore. Giardina Sandra. Chiedo agli spettatori di avvicinarsi. Una volta c'è il caramello con il collo. Ma non è una caramella, ma che c'è? Che modo di fare. Una caramella con il collo. Una volta c'era il formicolo per la gola a compresse. No, un dubbetto. Il presidente del consiglio stasera. Ti saluto. Antonio Sigona. Antonio Sigona. Antonio Sigona. Sigona Antonio. Questo si conosce. Vicita. Sigona Antonio. Vicita. Sigona. Avvocato Giulia Vicita. Sigona. Sigona, Vicitra, Sigona, Sigona, Sigona. Allora, 11 preferenze per Antonio Sigona, 4 preferenze per Vicitra. Nominato Presidente del Consiglio Antonio Sigona. Essendo persona di parte, come la prego, certo sono di parte, sono stato dell'Assemblea sarà quello dell'equilibrio e dell'imparzialità per assicurare una dialettica democratica tra i consiglieri di maggioranza e di minoranza, consentendo a ciascun consigliere di svolgere il proprio incarico elettivo attribuito sia dalla legge che sia dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Per questo che attraverso scrupolosamente il regolamento, con una dovuta tolleranza, flessibilità, generosità, di quanto consiglieri certamente saranno costruttivi e in buona fede. Se alla maggioranza aspetta l'onore di amministrare, alla minoranza aspetta quello di controllo, ma entrambi sono per un fine, il bene comune. In questi periodi sappiamo quanto è difficile, non soltanto a Palazzolo, ma penso in Italia e in Europa, come sentiamo da tutti i media. Io parlo così perché sto a Palazzolo, certamente non conosco la situazione di altri comuni, però sentiamo quanto è difficile e difficoltoso amministrare. Oggi penso che ci vuole coraggio e passione amministrare quello che io ho visto. Ma questo dicevo di parte o persona con un'identità del regista, il sindaco da tanti anni che sono stato qua, vicino al sindaco, il dottor Carlo Cicchetto, con quale coraggio e passione amministra il comune, con quale coraggio e passione questa volta che ho dovuto prendere come consiglieri delle decisioni non certo facili, non certo sempre alla leggera, come qualcuno può fare lì. Alla leggera non abbiamo preso niente, anche a livello del gruppo c'è stato sempre un dialogo, un ragionamento, certe volte magari scontri, però alla fine si è raggiunto il pensiero del bene, bene, bene. Comunque, come dicevo, ci vuole coraggio. E allora che cosa posso dire? Io continuerò a lavorare nella linea di traversa, dare possibilità e lusso a questo consiglio, e vi lascio con l'augurio che il coraggio, la passione e l'unità ci possono amministrare in entrambi gli schiavi di bene. Sono di qui. Grazie. Presidente, posso? Sì, prego, consigliere. Allora, intanto vi faccio gli auguri a nome del gruppo di buon lavoro. E poi volevo chiedere al consigliere di opposizione di spiegare la motivazione per cui non ha votato secondo le disposizioni del gruppo di opposizione. Mi sembra consigliere che mi ha votato, mi sembra una domanda poco, però sta in linea la coscienza, No, perché volevo far presente che, come ha detto lei, lei rappresenta noi per Palazzolo, ha un'identità ben precisa ed è di parte. Lei sente quello che vuole sentire. No, no, l'ha detto lei, l'ha detto più di una volta, ed è anche giusto che lo dica, non è che ne sto contestando l'intervento, però volevo chiedere al consigliere se vuole di spiegarlo. Grazie. Da al consigliere che è stato, con libera coscienza, potete rispondere o meno? Vabbè, io posso anche farti dare una spiegazione del mio voto. Non ho problemi a farlo. Infatti, allora premetto comunque che il Presidente del Consiglio è una figura che si pone al di sopra delle parti, quindi del Consiglio Comunale, che deve comunque dirigere e garantire la correttezza dei lavori del Consiglio Comunale. Quindi io ho espresso la mia votazione anche in base a quelle che sono le direttive del mio partito, sia a livello locale che a livello provinciale. E in quanto tesserati PD ho ritenuto di votare il consigliere Sigma. Quindi il PD cos'è? Scusate, quindi possiamo prendere atto. Puntualizzo che questo non significa che io aderisco a Cittadinanza, a noi aderisco alla maggioranza. Naturalmente mantengo la mia posizione di minoranza, di essere stata eletta comunque come cittadini attivi e mantengo quindi il mio ruolo. Grazie. Quindi io prendo atto del fatto che il Partito Democratico, che è il partito del consigliere Giardina, supporta noi per Palazzolo, è di parte e quindi sa che ha un'identità ben precisa che è noi per Palazzolo. Allora, lei però... Perché non ci sarebbe ragione per dare altre indicazioni, quindi vuol dire che abbiamo il Partito Democratico in questo consiglio, non lo sapevo. Il Partito Democratico resta fuori, il consigliere Giardina ha fatto la sua dichiarazione di voto. Lei si è detto a lei, tutto devo sentire quello che può sentire solo lei. Io ho detto sono una persona di parte e l'ho fatta questa dichiarazione quando ho detto al Partito Democratico dopo le elezioni, non me ne vergogno, sono del Partito Democratico, ma faccio parte del gruppo Noi per Palazzolo. Io non mi sono presentato con nessun simbolo di partito. Questo è ciò. Lei può farlo, prende tutti gli atti che vuole. Il consigliere Orlando Giardina ha espresso perché ha votato il mio nome, che è presidente del consiglio e sub parte, come sappiamo tutti. Io devo garantire l'imparzialità dei lavori. Non è né una carica politica, ma chiamiamola carica istituzionale. Questo è molto semplice. Poi lei faccia tutte le sue considerazioni politiche, lei è libero per farlo. Benissimo. A questo parola sì. Scusi. Lascio allora la parola alla dottoressa Rondavore. E poi. Poi lei e poi sì. Prego, dottoressa. All'inizio di questo discorso, quando si chiedeva dialogo da parte del consigliere Spada, si chiedeva confronto, si chiedeva sintesi dopo il confronto, e adesso veramente questa pagina che stiamo leggendo mi sembra una delle peggiori pagine nel campo politico a cui potevamo assistere, veramente, perché se si chiede dialogo, come che poi non ammettete anche la libertà di pensiero? Allora, no, io non è che... L'importante è essere chiari. Ci permette la possibilità di essere libero, ognuno di esprimere quanto si vuole, di dare un giudizio sulle persone, di dare un giudizio su quello che può essere anche ritenuto male dalla persona per andare ad avere un ruolo. Ecco, questa cosa mi sembra veramente molto, molto triste, mi chiede consigliere Francesco, e chiedere così pubblicamente la spiegazione, ma che adesso non si fanno queste cose, il voto è segreto e il voto non si dà nessuna spiegazione di come si vota. Eventualmente sono cose che potrete andare a vedere poi in iniziano al gruppo. È stato a mio parere mortificante chiedere al consigliere Giardina una spiegazione, perché non è in questo consesso che si fanno le spiegazioni. Il voto è libero, siamo liberi di votare, siamo liberi di pensare, e io anche potevo andare se avessi avuto un'altra persona di votare, anche lei consigliere Cappellari. E grazie, grazie consigliere. Mortificante nel campo della grazie consigliere. No, io lo accetto. Sto dicendo, dico, però credetemi, è stato per il consigliere decide la sessione di dire il perché. Ognuno vota chi vuole, come vuole, indipendentemente da quello che vuole. Giardina. Scusi. Capisco che mi pensa sempre, consigliere. Grazie, altrettanto. Come potenziale giornale. Dico però, diamo spessore a questo consiglio comunale. Diamo contezza, diamo significato. Grazie, ha chiesto la parola. Sì. Grazie Presidente, intanto io faccio i miei migliori auguri di buon lavoro e speriamo anche i miei migliori auguri di buon lavoro. Io volevo semplicemente aggiungere a questa discussione che questa sera abbiamo votato, credo, ritengo, noi abbiamo votato tutti secondo coscienza. Io appartengo anche al Partito Democratico, eppure ho preso un'altra linea rispetto a quella che era l'indicazione di partito. Questo per dire che stasera non si parla qua di PD, ma abbiamo votato secondo coscienza e siamo cittadini attivi e noi per Palazzolo. I partiti sono fuori da questo consenso questa sera. Semplicemente questo volevo aggiungere, grazie. Grazie, ha chiesto prima la parola. Ma io volevo fare solo una battuta per il sindaco. Ho visto la parola del sindaco già. Posso, allora, prego. Faccio gli auguri da capogruppo al presidente Sivona, che già conosco anche nel vestire questo ruolo, ha fatto precedentemente nella legislatura. Spero che Mandrega prenda il suo ruolo così come dimostrato di super parte, e quindi trovando un dialogo che finalmente si spera e anche che ci sia anche un confronto che si tenga parte realmente di questa opposizione, anche alle proposte che arrivano, discutendo, giusto o sbagliate che siano, ma comunque valutando, facendo delle commissioni, per dare, perché tutti siamo qui per dare un contributo e risolvere i problemi del paese. Quindi solo questo volevo dire del dialogo. Per quanto riguarda la questione interna, naturalmente noi avremo qualcosa da chiarire, giocheremo fuori col partito perché dovremmo capire anche, dato che comunque ha appoggiato una lista che era Cittadini Attivi per Palazzolo, questo lo andremo sicuramente a discutere insieme alla sede. Prego, signore. No, io invece un attimo di riflessione. Tanto vogliamo dare un presidente e soprattutto a noi tutti i consiglieri, perché voglio sottolineare a noi tutti i consiglieri di eliminare questa distinzione tra quello che è politica, cioè la questione politica, e quelle che sono le istituzioni. E poi, perché l'altro consigliato, chiaramente. Non ho capito. Noi come consiglieri abbiamo il dialogo e il confronto e mettiamo a primo posto la cittadinanza. Quindi io con questo augurio che faccio a lei, ma soprattutto ci facciamo noi il lavoro. E questo è un lavoro che voglio fare. Grazie Presidente. Chiesto la parola al sindaco, prego, se sia. Grazie Presidente. Grazie al Vicepresidente per l'attività che svolta nel momento prima della sua elezione. È chiaro perché non ho preso la parola nonostante le provocazioni avute prima dell'elezione del Presidente, però ora sostanzialmente due o tre cose me le voglio chiarire. In primo luogo, ricordo ai signori consiglieri, e chiaramente guardo la parte giusta, che questo gruppo ha una sua idea politica ed è il programma elettorale votato dai cittadini con i numeri che sappiamo, e su quel programma ci siamo misurati, nonostante le strumentalizzazioni e nonostante quelle che sono le continue provocazioni e gli attacchi personali. Su quel programma ci stiamo misurando e vogliamo essere giudicati dai cittadini, non sulle provocazioni personali. E quella è la nostra idea politica, quell'idea che io ringrazio i consiglieri che stanno da questo lato, non hanno dimenticato. E li ringrazio non perché stanno da quel lato, li ringrazio perché quotidianamente mi sollecitano a raggiungere l'obiettivo del programma elettorale. Questa è la nostra idea politica. L'altra idea alla base della lista civica, e io questo lo voglio evidenziare, è la libertà di appartenenza, è la libertà di pensiero, è la libertà di espressione, che vedete che è alla base della democrazia. Alla base il sindaco, il primo sindaco non si deve permettere di chiedere spiegazioni soprattutto ai pubblici, perché questa è la democrazia. Io, che mi fa piacere che ho sentito tante parole di democrazia citate, ne ho scritte alcune ma non ci voglio ritornare. Voglio soltanto dire che se al Presidente uscente sono state riconosciute doti di imparzialità, quelle doti di imparzialità a distanza di poco tempo non le possiamo dimenticare, perché quell'imparzialità, seppur dalla provenienza del Presidente, sono state riconosciute e sono frutto di atteggiamenti oggettivi del Presidente. Quindi questa assenza di dialogo, questa assenza di democrazia è solo un volere strumentalizzare e provocare. E per questo, Presidente, le auguro buon lavoro, ma soprattutto le raccomando di mantenere una linea di imparzialità, gliela raccomando a voce alta, perché non abbiamo motivazione da questo lato di poter avere un Presidente di pace. Non abbiamo questa necessità. Il Paese non ha questa necessità. Lei proviene, giustamente, ha fatto bene a dirlo da quel lato. sostanzialmente lei deve essere il presidente di tutti, come lo è stato il presidente uscente, che ringrazio bene per la sua coerenza e per la sua liberalità di pensiero fino all'ultimo. Questo è quello che le auguro, oltre al buon lavoro, proprio tenere dritta la spada sull'imparzialità e soprattutto fare sentire coinvolti tutti in quelli che sono i pensieri della libertà di espressione, in quelle che sono anche i distanze che devono essere manifestate, ma devono essere manifestate con stilo della verità e pretendendo la verità, il primo da parte del sindaco, il secondo da parte degli assessori, il terzo da parte degli uffici. Questa è la cosa che sostanzialmente mi auguro e che auguro a tutti, perché quanto è bella la trasparenza e il senso della linearità di pensiero, alla fine già un primo passo avanti che abbiamo fatto nel modo di essere persone e nel modo di essere amministratori, perché oggi siamo amministratori, ma in primis siamo persone. Per questo non giustifico mistificazioni, non giustifico quelli che sono gli attacchi personali e non giustifico quelle che sono da voi in qualche modo le coercizioni. Presidente, buon lavoro. Con queste parole veramente mi auguro e sono convinto, perché la conosco, che lei queste cose sostanzialmente le applicherà. Grazie signor sindaco, certamente farò tesoro di quello che mi ha detto e penso che, come ho fatto prima, cercherò di fare ancora meglio nel mio secondo mandato. Grazie. Allora, l'argomento delle elezioni non sia l'ultimo del passato, al terzo punto è attività ispettiva. Qualcuno chiede la parola? Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Io avevo solo una domanda. Al di là delle note che sono uscite a mezzo Facebook sul carnevale, che è tutto a posto, eccetera, volevo capire se qualcuno ci può delucidare meglio su qual è la situazione, perché c'è un rincorrersi di voci sul carnevale che arriverà. E in particolare vorrei porre l'attenzione su una questione che era quella che aveva accennato il consigliere Cappellani, su quel finanziamento da parte del Ministero per quanto riguarda i carnevali storici. So che Avola lo ha ottenuto e sembra che stia lavorando con quello. Volevo capire cosa è successo, perché ad Avola ci sono riusciti, sembra ci siano riusciti, e a Palazzo Lolo. E soprattutto se è vera questa cosa che ci dava il consigliere Cappellani, che è stato solamente un problema logistico di spostamento. Io devo dire, per questo vi assicuro che la disinformazione sta in qualche modo imperando, alimentata a danno. E quando si sa questa informazione, vedete che non disorientiamo solo i cittadini della nostra comunità, disorientiamo chi è che il carnevale di Palazzolo lo ha visto bene e lo ha soprattutto frequentato. Allora, il carnevale mi sono affrettato a fare il complicato, perché visto che stavano montando le voci che il carnevale sostanzialmente non conosceva, perché ho subito voluto smentire questa cosa, perché non si deve fare? I momenti sono difficili. Lo sappiamo tutti, con quel fuoco che avremo faremo il carnevale. Lo faremo. Sarà improntato su una chiave innovativa. In qualche modo ci stiamo già lavorando, nonostante i problemi della Befana, perché la Befana purtroppo ci ha portato un po' a poco. Questo me ne dispiace, perché vuol dire che sono stato onesto. Però sostanzialmente, di fatto, ci stiamo lavorando e il carnevale si fa. Il consigliere Cappellani, purtroppo, o è disinformato, o vuole fare disinformazione, o vuole sostanzialmente creare confusione. Perché quando mi parla di un contributo del comune di Avola, io faccio notare che tutti gli articoli usciti da parte dell'assessore comune di Aquila, fanno riferimento un'adesione a un'associazione nazionale che si è da poco costituita, e tutti gli articoli facevano riferimento a un'adesione a quell'associazione, solo che l'articolo era attaccato per cercare di creare l'attesa sul carnevale di Aquila, ma di fatto è un'adesione a un'associazione neocostituita. Il contributo al quale si fa riferimento, che scaturisce dal bando del ministro Franceschini, ad oggi non è stato sostanzialmente chiarito a nessuno, cioè non è stato al momento decretato. Vi posso solo dire che il comune di Palazzolo Grande ha partecipato a quel bando e ha partecipato sostanzialmente studiando attentamente il bando e capendo effettivamente come impostare la società. Ci hanno lavorato i consiglieri, ci hanno lavorato dell'assessore, ci abbiamo lavorato tutti negli uffici, ma l'abbiamo, ci siamo candidati nei tempi giusti e secondo quanto prevede. Noi siamo in attesa, già da lunedì, non l'abbiamo fatto in questi giorni, perché sappiamo sostanzialmente che in alcuni ministeri, in alcuni posti i ponti diventano lunghi, un po' come le scuole, io questa cosa non venisco mai per arrivare, che in alcune cose riescono a fare i ponti così per lunghi, a scuola si facevano i ponti così lunghi, ma io penso che in realtà ormai di fare i ponti lunghi è abbastanza importante. Stiamo aspettando sostanzialmente di capire quali sono le decisioni del ministero. Vi aggiungo che sempre sul gruppo di lavoro per chi ha lavorato in questo tipo ha candidato il cardinale anche sulla circolare dell'assessorato regionale del turismo, quella che consentiva di presentare la manifestazione in tempo che per l'anno successivo. Noi ci siamo candidati anche in quella circolare, cioè, noi sostanzialmente quelle che sono strade diciamo così aperte che lasciamo e che non percorriamo fino a questo momento non ce ne sono state, anche perché sono così poche nelle risorse che alla fine non ci possiamo permettere di perdere un'occasione. Ma anche lì aspettiamo una risposta da parte dell'assessore. Quindi la cosa che ci tengo a dire e mi auguro che questa non diventi proprio una cosa in cui poi alla fine si fa che il carnevale a Palazzolo ci sarà. E ci saranno sostanzialmente con le risorse che abbiamo. Chiaramente ci dedicheremo tutto il tempo che è necessario per dedicare, nonostante è a ridosso del Natale. Ma vi assicuro che il carnevale si terrà tempo per me. Volevo ringraziare il sindaco per il chiarimento, perché quindi stiamo attendendo gli esiti di entrambe le adesioni. Ovviamente quando lei parla che ci hanno lavorato i consiglieri, ovviamente ci hanno lavorato loro, noi no, perché noi non, noi non ci dobbiamo lavorare al carnevale. Gli appestati. Perché qua gli appestati. Anzi se ci avessimo lavorato sapremmo meglio quello che abbiamo detto. Gli appestati. Ma non è una prova, è una verità. Io sento e mi fa piacere un pochino perché poi ascolto, dico, beh, può essere che io sto diventando sinnamorato. L'avviso pubblico che abbiamo approvato in giunta a ottobre l'abbiamo portato in consiglio per inaugurare la discussione e per ricevere i contributi da parte di me qualsiasi. Sui contributi ricevuti, io sostanzialmente sono stato il primo a dare una risposta, dicendo ma questa è una cosa, ma questa così, e se volete vi posso anche elencare quali erano le cose che avevate proposto, che in particolare aveva proposto lei, e sui quali io avevo espresso le mie risposte. Ora, sul discorso che lei mi dice e ci vogliamo da lavorare, io so che in ufficio turismo ha mandato una lettera dicendo siete disponibili ad entrare nell'ambito della commissione, perché di questo stiamo parlando, cioè non è che le cose li dobbiamo nascondere. E abbiamo mandato una lettera. Sindaco, forse lei è disinformato, sindaco. Glielo dico io che è disinformato. Da questo punto di vista qua a Natale l'anno scorso qua a Natale qua a Natale è consigliere Cappellano e sindaco lei lei io aspetta aspetta ha mandato 5 lettere no lei non ne ha mandato neanche una come l'abbiamo mandato questo anno non ne ha mandato neanche una non è un discorso legato all'amministrazione un attimo e finisca che lei quando dice che voleva essere coinvolto anche in quelle che sono sostanzialmente le preparazioni della risposta per il banco io ne prendo atto perché guardi che non ho difficoltà a coinvolgerla quando prepariamo il progetto per il banco non abbiamo difficoltà perché da questo punto di vista sostanzialmente qualcuno da forse deve essere che sono cose che non ha fatto a casa sta cosa. Io vi assicuro che il lavoro dei consiglieri insieme all'ufficio perché alla fine si preparano le cose che alla fine ci sia da qualcuno da quest'altro lato ne posso prendere atto che date anche questa disponibilità però non cercare di girare le cose perché a girare le cose alla fine ci sono le case. Ci sono le carte che dicono e parlano sulle cose e sul discorso del carnevale questa amministrazione voleva aprire la discussione è stata una discussione che è stata cominciata alla fine ne abbiamo presi altri ma vi assicuro che proprio perché ne abbiamo presi altri ma alla fine siamo andati avanti perché non ci possiamo permettere nonostante le difficoltà che qualcuno poi possa dire non avete fatto la manifestazione ma anche perché non è negli obiettivi dell'amministrazione non fare la manifestazione cioè non fare la manifestazione gli obiettivi sono quelli di realizzare la manifestazione tenendo conto e valorizzando al massimo le risorse. Volevo un attimino rispondere brevemente sulla storia che lei dice, noi ci giriamo, no? Quando ha capito un attimino che noi non ci giriamo, forse lei. Lei parla della commissione, comunque a me non è arrivata, forse l'ha lasciato il signor Rora, chiedo Giampaolo da qualche parte nell'ufficio Giuseppe, perché a casa. Allora, è arrivata a me Giorgio. L'ha lasciata a Giuseppe per caso? No. Giampaolo mi ha detto che l'ha lasciata dall'adulto Lorduzzo. Non lo so, a me non è arrivata. Comunque, parlando. Ma siamo in consiglio comunale. Al signor Giampaolo. Lei parla della commissione per quanto riguarda la commissione giudicatrice dei casi di fare parte. Ogni volta le voglio ricordare, proprio per così rinfrescare la memoria, perché sembra più la sua una provocazione, quasi quasi ogni volta portarla in questa sorta di. L'anno scorso addirittura avete direttamente chiamato, avete fatto voi, senza far sapere nulla, o comunque comunicazione, alla fine avete scelto un membro, senza fare comunque il passaggio dovuto chiedere al capogruppo, quantomeno al gruppo in generale, e questo è un modo studio, questo è il modo di operare, giustamente, aspetti, non l'ho interrotto, lei ha ragione, quello che dice lei è così bello, bravo, parla di trasparenza, parla di libertà d'espressione, già che la lavoro è proprio chiedere anche la libertà d'espressione al suo gruppo, mi è sembrata più un'imposizione tutto quello che è successo, o quantomeno accordi che si dovevano rispettare, punto e basta, non voglio scendere perché poi diventa veramente... Niente, lei è giusto, lei è bravo, è bravissimo, funziona così. Lei forse non ricorda la campagna elettorale, questo forse sono due elementi. Guardi, io le ricordo la campagna elettorale due cose, racconta differenziata porta a porta che ha 20 anni che ce la portiamo su tutti i programmi e poi ricordo un'altra cosa, il frigo macello, che poi veramente, secondo lei ci ha fatto due campagne elettorali questo. E ancora in mezzo alla strada. Vogliamo andare oltre, parlavamo dell'area di sgambettamento per cani, ancora siamo messi lì, aspettiamo il programma, vogliamo andare a... scusi un attimo, non l'ho interrotta, vuole fare la difficoltà, bene, sarebbe anche bello adottare quella politica del benchmarking, che vuol dire andare a vedere le comunità virtuose, basta vedere sull'ambito dei rifiuti quello che sta avvenendo in alcuni paesi, che sono anni luce più avanti, vabbè, lei fa sempre la faccia, lei giustamente nel suo ambito è bravissimo, qui i finanziamenti sempre mancano, e altro, va bene, per quanto riguarda la commissione, cioè, ha dato di fatto cosa? A giudicare, ma noi stiamo parlando del contributo quando abbiamo chiesto una commissione che si facesse ancora prima di portare regolamenti, di un confronto e quant'altro. Per questo spero che il nuovo assessore, a cui veramente se ci sarà o quant'altro, percepisca il nostro messaggio e ci tenga in considerazione, come abbiamo sempre fatto. Ma le cose fatte alla fine, che vi mandiamo la carta per giudicare chissà i carri, con quale competenza, anche perché vorremmo capire lì come viene scelta questa commissione, mi sembra una cosa che veramente non sta né in cielo né in terra, proprio per parlare di trasparenza, di partecipazione e contatto. Grazie Presidente, auguroni per la sua elezione. Grazie. Anche se io non l'ho votata, però gli auguri gliene faccio nuovamente. Siccome io sono sempre quello che non ricordo le cose, vedo le cose scritte male, invece il sindaco è sempre quello che vede tutto e segue tutto, perché giustamente qua di vado da un pool che è molto addentrato praticamente nelle cose. Presidente, dico sempre, e lo dico al sindaco, che uno deve anche dire dove arrivano i suoi limiti e deve praticamente ogni tanto fare un esame di coscienza, anziché parlare del programma elettorale così bello e così corposo, dove praticamente ci sono state due candidature fatte dal signor sindaco e altre due candidature praticamente dall'amministrazione Nigro. Il programma è sempre quello, si sono fatte le campagne elettorali, si sono fatte quello e finalmente si è realizzato tutto in questo paese. Niente, devo dire solamente un grazie e un elogio all'ex sindaco Nigro, il quale con mille problemi ha fatto giustamente l'impianto di illuminazione elettrica, che è una cosa che rimane giustamente nella storia e questo va detto in questo consiglio. Poi per quanto riguarda praticamente sempre quello che legge le cose al contrario, vuole fare, crea caos, caro sindaco, il consigliere comunale Salvatore Cappellani non crea nessun tipo di caos, però gradirebbe dall'altra parte che chi è che praticamente lo coadiuva nell'amministrazione di questo paese lo informi realmente di come stanno le situazioni, non che praticamente è lei che informa a chi lo coadiuva, perché qua funziona, era una macchina che funziona al contrario. Le dico questo perché per quanto riguarda il carnevale, lei ha detto con i pochi fondi eccetera eccetera, lei fino alle ore 20 e 30 del giorno 8 ha un assessore al turismo, avvocato Paolo Sandolo, il quale ha portato il paese, e dico sindaco non mi può smentire su questo, ha portato il paese alla distruzione totale. E non mi dica, non lo elogi come ha fatto fino all'ultima commissione che lo ha elogiato, dica giustamente, beh, abbiamo sbagliato. E io giustamente le dico, sindaco, lei davvero ammette quello che realmente c'è nel paese, ma non dica sempre, non lo elogi, perché allora io dico che il problema non è solamente dell'assessore Sacco, il problema è anche il suo, perché se lei mi elogia praticamente un modo di operare del suo assessore al turismo, io praticamente alzo le mani. E le ricordo il corso che era a Beirut del 2015, quando praticamente c'era la fine del mondo in Cina, ma lei non c'era in quelle ore, sindaco. Veniva chiamato per telefono in quelle ore, veniva chiamato dai vigili urbani, veniva chiamato dalle persone che non potevano entrare in casa, veniva chiamato da quelle persone. Quindi lei lo ammetta, non dica che Cappellani dice le cose al contrario o cerca solamente di fantasticare sulle cose, perché veda che io praticamente le cose dico, le cose che vedo. E come stanno, sindaco? Posso anch'io sbagliare? Lei non sbaglia mai, come ha detto finora. Io invece le dico che posso sbagliare e lo ammetto quando sbaglio, però quando non sbaglio non posso tornare indietro, le dico le cose come stanno. E a tal proposito, caro sindaco, faccio anche una questione sull'attività ispettiva. Veda che cos'è che a me mi ha sorpreso, sindaco, gliel'ho detto dal primo giorno, le sue parole quando 2 anni e mezzo circa io sono entrato in quest'aula, veramente sono rimasto, ma devo dire, meravigliato, perché lei ha fatto un discorso giusto, ha detto io sono il sindaco E giustamente ho il mio gruppo di maggioranza, ma certamente da sindaco prenderò anche le idee del gruppo di minoranza. E io veramente sono rimasto, queste parole mi hanno, è vero, proprio, non so, non trovo l'aggettivo come spiegarlo, no, sono rimasto, no. Ho detto, davvero, il sindaco è a posto. Tutto questo non è avvenuto, caro sindaco. E sa perché non è avvenuto? Perché quando io le faccio praticamente, le ho fatto le interrogazioni, lei sa, ha risposto praticamente solamente a due interrogazioni in maniera praticamente giusta, valutandole. Poi nelle altre lei ha risposto sempre come praticamente il dittatore del comune di Palazzolo. Questo è così, questo non si fa, questo è... Lei ha risposto così, e se vuole sapere, sa perché, glielo dico subito, e glielo dico praticamente nelle ultime interrogazioni, le sue risposte che ha dato. Io le ho fatto un'interrogazione, anzi era la terza che le ho fatto, sopra il castello medievale. Dico, ma chi lo gestisce questo castello medievale? Lei, la risposta che mi ha dato, e io vedo poi qual è, signor sindaco, le risposte le attendevo praticamente dai suoi assessori, non da lei. Invece la cosa grave è che gli assessori non rispondono mai, risponde sempre lei, dicendo giustamente delle cose che non stanno praticamente, non stanno. E quali sono? Sindaco, lei mi dice praticamente relativa risposta all'interrogazione del castello medievale. Dispiace rilevare nella premessa dell'interrogazione in oggetto delle inesattezze e alcune provocazioni che non meritano risposta. Queste relativamente all'ingresso del castello si ribadisce quanto più volte detto in consiglio comunale, ossia che da più di un anno l'accesso all'area è libero e gratuito per chi che sia. Sindaco ha detto una bugia, e glielo dico in quest'aula, ha detto delle bugie, delle fantome, perché chi vuole entrare al castello deve telefonare praticamente a delle persone e deve giustamente anche dopo elargire l'ingresso. Se lei di questo non è informato, caro sindaco, si vada ad informare prima che mi dà la risposta, perché io vedo più, ho usato un altro metodo di misura. No, caro sindaco, perché ero presente io, quindi non mi ha informato nessun informatore. Lei pensa che io abbia dell'informatore, ma veramente è successo a me personalmente, dove praticamente persone senza nessun tipo di tesserino, va bene, quant'altro, vanno praticamente in quel sito ad accompagnare praticamente le persone. E poi, va bene, questa fantomatica associazione turistica Prologo che gestisce praticamente l'entrata al castello medievale. E c'è una lettera a tal proposito, non so se lei ne ha conoscenza, perché allora se lei non è a conoscenza non so che cosa dirle. C'è una lettera che sta praticamente in qualche ufficio di questo comune, dove praticamente il presidente dell'associazione turistica Prologo le dice che praticamente è già scaduto da un anno la gestione del castello medievale. Lei lo sa questo? Se la vada a cercare quella lettera, caro sindaco, le dice che non è una cosa, e dice anche, beh, se l'amministrazione vuole sempre concederci la possibilità di gestire il castello, lo faccia. Segretario comunale, questo come si chiama? Me lo dica lei. Poi ma come si chiama? Non come si chiama il segretario, come si chiama praticamente questo giochetto delle parti, caro capogruppo? Una volta si sono i panni. Quindi questa è la cosa, quindi Cappellare non dice mai le cose così per creare disorientamento, cose. Dice le cose per come stanno. E le dico anche, a proposito del carnevale, che lei dice faremo il carnevale come praticamente cose. Il suo assessore ha fatto un bando che ha portato in questo consiglio comunale, e in questo consiglio comunale l'ex presidente seduto praticamente ora la carica di consigliere aveva detto, dice, lo riporti praticamente successivamente con le modifiche che il consiglio praticamente le ha chiesto di apportare. Non l'ha portato più, l'ha pubblicato direttamente, lo sa questo. Ecco, e che cosa è successo in questa situazione? Che ci sarà per il carnevale un solo carro, caro sindaco, e tre gruppi in maschera. Ma questo perché c'è aperto? Questa è la realtà del suo assessore. E a questo punto è la sua, perché non so, allora lei gli fa. Quindi queste sono le realtà. Io crederei che il sindaco ammetta queste cose. Perché se il sindaco ammette queste cose, io mi sto praticamente tranquillamente calmo e in pace. Però li ammetta, sindaco, non dica che il suo assessore è sempre il più grande e che lei è contorneato da persone che materialmente possono andare a fare i ministri. C'è qualcuno praticamente che sarà ministro a vita, perché c'ha due consiglieri che saranno praticamente assessori a vita e quelli moriranno praticamente perderanno praticamente la carica solamente alla morte. Grazie. Ma è lei cosa sta dicendo? Sulla gestione del Presidente, una cosa che lei lo dice, che si chiama. Ma giusto, lei lo sta dicendo lei, consigliere, eh? Io non l'ho detto. L'esistenza delle associazioni a delinquere, delle associazioni. Noi a sollevare polveroni, siamo bravissimi in quest'aula, che siamo bravissimi. Però una cosa mi fa piacere, consigliere Cappellano, dal tuo lungo excursus di accuse su questa amministrazione, su questo sindaco, sul fatto che non si sia fatto nulla, che solo un vetusto recordo di illuminazione pubblica possa fregiarci di, in questi ultimi 16 anni, in questi ultimi 20 anni, in questo paese, voglio dire, abbiamo avuto una cosa che le uniche vere critiche, quelle pesanti veramente, che sono state mosse ultimamente, sono state fatte per la Befana, per la Befana sì, Befana no. Questa è una cosa veramente che mi fa piacere. Questo lo sa che significa il consigliere Cappellano? Oppure quando il bailout dei carri, il bailout del costo, mi fa piacere sentirlo, ascoltarlo dalla minoranza, perché significa che non ci sono argomenti seri, che non c'è veramente qualcosa da sollevare di vero, di ponderare. Significa che l'amministrazione in questi ultimi 20 anni, da Nicolo e Scivetta, ha lavorato bene. Ha lavorato bene, dignitosamente, degnamente, sta superando la fase più buia che ci sia stata di crisi economica, quando l'opposizione non risolveva altri problemi sul lavoro dei giovani, su quello che possa essere, su quello che possano essere argomenti da discutere in quest'altro, non mi porta argomenti di coesione tra minoranza e maggioranza su cui discutere e essere fattivi, quando l'opposizione va solo a denigrare il lavorato di un'amministrazione e fa danno ai propri cittadini. Questo poi mi preoccupa, questo poi mi preoccupa. Io le devo dire, ma non qua per noi, caro consigliere, le discussioni ce le facciamo internamente, ne abbiamo discussioni. Il nostro rapporto dialettico con il sindaco, con i consiglieri, con gli assessori, guardi che molte volte ha dei toni di una certa portata. cosa che non andiamo a palesare ovviamente in consiglio comunale, come lo fate voi. Questa sera è stata fatta qualcosa di grave nei confronti del consigliere Giardini. Permettete, queste cose sono di una gravità inaudita, che non c'entrano nulla con la politica, con i gruppi di appartenenza. Cioè, non si può fare un processo pubblico ad un consigliere. A me sono rimasto allibito, perché avrebbe dovuto alzarsi e andarsene e dimettersi dal vostro gruppo di minoranza. Ma cos'è un gulag? Ma stiamo scherzando, un processo pubblico si vuole accendere questa sera su un voto. Ora voglio dire, caro consigliere, allora non delegittimiamo questo paese, non denigriamo. Fino a questo momento l'assessore Paolo Sandro ha svolto egregiamente il suo dovere, lavorando alacremente, dando il massimo dell'impegno, fronteggiando tutte le mancanze economiche che ci sono state in questi anni. E se conclude il suo mandato, lo conclude egregiamente, portando e compiendo il suo mandato in una maniera brillante, con l'ultimo Natale che si è fatto a Palazzo. L'unico, e ripeto, l'ho detto l'anno scorso, quando fu attaccato, l'unico Natale vero e l'ha fatto, organizzato col patrocinio dell'amministrazione comunale, e grazie alla manica che c'è con le associazioni private, con i gruppi parrocchiali, eccetera, eccetera, è l'unico comune dove si è svolto un Natale degno di essere chiamato padre, ovviamente con legge dell'amministrazione e dell'assessore comunale. Scusi consigliere, ma quali sono le associazioni comunali? Come? Le associazioni? Quali sono? Associazioni, sarà l'associazione Civera, San Miguel Quartiere. Ma quelle non hanno chiesto né con. Ma lascia perdere che non hanno chiesto. Ma quale associazione è? Scusi. Non ingeneriamo un. Levando l'associazione teatrale palazzolese, mi sembra che altri. Il fatto di ingenerare conflitti sociali in questo paese non ha bisogno di conflitti. Questo paese ha bisogno di coesione con i vari gruppi. E finora questo c'è stato. E se ne sono visti e si vedono i risultati. Poi, e devo dire, calmiamoci sul futuro carnevale, calmiamoci, non esprimiamo giudizi. Ancora, tutto questo clamore che sta accadendo, il carnevale, un carro, due carri, calmiamoci, vediamoci il giorno, quando sarà, giorno 5 febbraio, giorno 7 febbraio, poi tireremo le somme, se il carnevale a Palazzolo c'è stato oppure no. Ma come l'abbiamo detto l'anno scorso? Adesso uso un aforisma che usa Renzi, il nostro presidente del Consiglio. Noi applicheremo i nostri scongiuri contro i gufi. Contro i gufi che vogliono che nulla riesca, che vogliono che nulla si faccia e che tutto muoia a Palazzolo, purché muoia l'amministrazione. Si impanga il sindaco Scimetta, si impangano i suoi consiglieri e si impangano i suoi assessori. Ma io le dico che questo non accadrà e ci sarà un bel carnevale. Grazie consigliere, grazie. Sì, chiudere un po' questa piccola discussione che è nata sul consigliere Giardino. Voglio raccontare un po' un aneddoto che ho letto non tanto tempo fa. Non so se ci sta, però ci sta, perché è un inventuto. A me è piaciuto sempre un personaggio storico, cioè strano, se te lo dico come viene da dire, Winston Churchill. È sempre piaciuto, ci ho avuto sempre, non so che cosa verso questa persona, mi affascina anche quando ho visto dei filmati storici, mi affascinava questo personaggio, questo modo come ha condotto in Inghilterra della seconda guerra mondiale, forse nel futuro, più umano, insomma, mi ha affascinato sempre, ho letto poco tempo fa, su Winston Churchill, come lui da primo ministro allora in tempo di guerra, esercitava quel potere verso la sua indipendenza con asparenza, violenza, e in poche parole alla fine, con tanta lamentela di dire, si vinse la guerra. Consigliere Francello, dopo che vinse la guerra, Winston Churchill si candidò come primo ministro e non fu votato dalla maggioranza degli inglesi. La moglie gli disse: hai visto quanto sacrifici hai fatto per la tua Inghilterra e ora non ti hanno votato? Sai che ha risposto Winston Churchill? Ha risposto: mia cara, abbiamo combattuto per questo. Grazie. Bellissimo. Mi è rimasto perché c'è un libro di votare o non votare. Questa è la libertà. Hanno perso migliaia d'ora, migliaia, milioni di persone. Si è combattuto per essere liberi. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Che se n'è andato il consigliere Gallo, perché gli avrei voluto ricordare che comunque qui è espressione della cittadinanza e magari portavoce, quindi certe cose non è che non c'è coesione neanche con la cittadinanza, e se certe cose li portiamo in consiglio perché sono anche lamentele della cittadinanza e quindi uno li porta per discutere, non è che facciamo le fazioni qui la stanza dei bottoni, fuori ognuno è scollegato, fa quello che vuole. Seconda cosa, il fatto che dice parliamo i giovani che vanno fuori, è un problema, però forse è invertito anche i ruoli. Non ne parliamo, possiamo essere propositivi, ma siete voi amministrati, dovreste dare anche voi delle risposte insieme oppure trovare delle soluzioni, cosa che non avviene. Grazie consigliere Nadia, se no... Sì, no, sto il consigliere Licini ha chiesto prego, e poi dopo il sindaco. No, io semplicemente, visto che il consigliere Gallo ha parlato del Natale, volevo dire un grazie e credo che questo lo possiamo fare tutti insieme umilmente a tutte quelle persone che indistintamente di appartenenza a San Michele, a San Sebastiano, a San Paolo hanno operato per il nostro Natale, l'hanno reso veramente un Natale bello, particolare, forse uno dei più visitati sia a livello di presepe, di albero, della zona montana e forse anche di Siracusa provincia, anche oltre. Quindi grazie a tutti quelli che veramente sono impegnati e sono veramente un esempio di come si opera per il bene del paese. L'hanno fatto senza veramente volontariamente, senza confine particolare, quindi volevo dire grazie a tutti, San Michele, San Paolo e San Sebastiano, veramente. Ha chiesto la parola sì, prego. Per questo le posso purtroppo dire che non condividono la sua deposizione, non ne condivido neanche l'azione. Non posso che dirle questo, e mi dispiace, perché quando poi faccio questa affermazione pare che io chiudo, e chiudo in maniera definitiva. Mi dispiace, perché io voglio chiudere certi capitoli e certe paradigmi. Ma le assicuro che nella posizione di sintomo l'apertura su quella che è la valutazione di te proposta, come ad oggi c'è stata, continuerà a esserci, perché alla fine io non mi vado a chiudere, noi non ci dobbiamo chiudere, perché alla fine sarebbe sbagliato. E la prima cosa la dico a me stesso, e lei tutto questo per onestà non può non ammettere, perché l'ha detto tra l'altro un'altra volta in commissione, che alcune cose da lei sostanzialmente evidenziate non sono state riprese dall'amministrazione e realizzate, seppure le cose piccole, ma sono sociali. Non voglio entrare nel merito, perché è corretto che questa cosa io sostanzialmente la dico, ma non entro nel merito. Sul discorso del castello le assicuro che l'informazione è sbagliata, glielo assicuro. E glielo assicuro nella misura in cui io ho fatto una lettera di mio pugno, e quindi non è passata dall'ufficio, per dire che mi assumevo la responsabilità, e sulla base di quella lettera ho tutta la responsabilità di quello che succede al castello. Perché da più di un anno, ora la dottoressa Moneglia forse mi potrebbe dire anche il periodo corretto, ho dato indicazioni di aprire e chiudere il cancello del castello, di farlo fluire come la villa comunale. Quindi la mattina un dipendente di questo comune, tutte le mattine alle 9:15 scende sotto e va a aprire nel cancello, fa il giro per vedere se ci sono delle cose non dette, e poi la sera sostanzialmente va a richiudere. Glielo assicuro, non ho motivo di dire perché non ho motivo realmente di dirlo, e quello che vi ho risposto è questo, perché già l'ho detto una volta, ma non perché volevo chiudere la discussione, perché questa in questo momento è la situazione, e siccome mi sono reso conto che in questo momento sta funzionando, almeno questi sono in qualche modo i ritorni che ho diciamo da parte della cittadinanza, e anche da parte di alcuni visitatori che mi hanno mandato delle mail, perché si sono sostanzialmente sono potuti andare a quest'area del castello, così come dicevo anche nel mail che dice: ma dov'è il castello di Palazzolo? Perché una volta noi parliamo del castello e la gente si illude di trovare il castello e poi trova un'area del castello. Io per questo parlo sempre di area del castello. Alla fine sostanzialmente io perché le dovrei dire diversamente? E perché tirare in ballo un assessore che da questo punto di vista alla fine ha condiviso e alla fine non poteva essere diversamente questa scelta del sito che poi è diventata la scelta dell'amministrazione? Cioè adesso glielo dico, ma perché sostanzialmente alla fine dobbiamo, quando ci sono le cose che vanno sottolineate, vanno sottolineate. Quindi le assicuro un'altra cosa, cioè poi qualcuno ha sentito parlare di nel programma Modello, io non mi sono mai vantato del programma, ognuno di noi ha fatto la scelta di scrivere quei programmi, ma i programmi li abbiamo scritti, non ce li siamo creati. Poi alla fine ne dico, ho sentito anche dire, io ero il sindaco Nicro nella pubblica illuminazione, io ho fatto parte di quell'amministrazione, non è stata solo la pubblica illuminazione, dico potrei elencare anche altre cose, ma io non sono qui sostanzialmente a dover difendere quell'amministrazione già sono le opere. Così come le posso dire che i programmi nostri non sono un modello di quello precedente, i programmi nostri, soprattutto l'ultimo, perché è l'ultimo che ricordo di più rispetto a quello di 7 anni fa, l'abbiamo scritto tutti insieme. Non l'ha scritto il sindaco Scilletta, perché non era neanche corretto, l'abbiamo scritto tutti insieme. Ci sono idee che sono state apportate sostanzialmente dai consiglieri, quelli che oggi sono dei consiglieri, e anche di quelli che non lo sono, che sono scritte lì. E abbiamo preso impegno di realizzarlo. Mi auguro che riusciamo a realizzarle tutte, anche alcune cose che non sono scritte, ma intanto di poterle realizzare. Di questo ci stiamo sforzando. Non è che alla fine stiamo sbandando e sto dicendo la raccolta differenziata non la faremo, non partiremo, il frigo macello, non ne voglio sapere nulla. Ogni cosa ha le sue dinamiche, purtroppo alcune che non attengono solo al sottoscritto e solo a questa amministrazione, e quindi dobbiamo un pochino seguire queste dinamiche e cercare di centrare gli obiettivi. Solo questo ne volevo dire, mi ha parlato di questo, ma voglio andare, ma vi assicuro che nell'assessore si è fatto delle cose, l'ha fatte condividendole con l'amministrazione. E la voglio anche dire una cosa, l'avviso pubblico, perché devo dissentire anche da questa la sua affermazione? Perché le modifiche all'avviso le ha scritte il sottoscritto, che non ne chiedo a stringere con i denti. E che, tra l'altro, se andiamo a leggere le carte, il sottoscritto ha inserito pure alcune cose provenienti dalla discussione di questo nel Consiglio Comunale, e motivandole perché ne le abbiamo inserite, perché poi queste cose le abbiamo fatte, le abbiamo prese con una deliberazione giusta. Però queste, alla fine, lo ricordo bene, c'è stato un ragazzo che si è alzato lì, dice: i tempi sono molto stretti, un pochino, anzi sono troppo lunghi, al contrario, accorciati. Guardate, siccome mi è sembrato che era anche condivisa, accorciamo, no, l'abbiamo preso, l'abbiamo accorciato. Poi nella stessa persona nel possibilmente quello che lo preso, ma forse ora sono troppo stretti, ma che dobbiamo fare? Cioè, noi in qualche modo, quello che è stato il frutto della discussione, l'abbiamo, alcune cose riprese. Quelle che non abbiamo riprese sono quelle cose che io stesso ricordo di averle in qualche modo già avanzato per questi anni, già in sede di seduta di consiglio, non è che alla fine ho detto ora poi vediamo se li riprendiamo, ho avanzato le perplessità anche motivate. Per questo ora, questo ritornare indietro e in qualche modo dire se ne siamo stati coinvolti o non siamo stati coinvolti, io capisco che ognuno deve fare, deve tenere la propria posizione, però vi assicuro che se andate a rileggere le carte, queste cose sono scritte, e sono scritte proprio affinché rimanga una memoria del futuro, non a memoria, nella memoria proprio futura, non di futuro, di memoria di breve futuro, di breve della breve tempo, anche a me del futuro. Signor Sindaco, se non ci sono altri interventi, chiudiamo il terzo punto. Bene, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione piano comunale italiano. Chiamo il responsabile della protezione civile, il commissario Salvatore Carigiola, per esporre questo punto, così si inizia la discussione, poi c'è anche la terza commissione. Prima a te. Allora, si ha il microfono? Sì. Prego, commissario. Allora, il piano comunale amianto nasce praticamente dalla legge regionale numero 10 del 29 aprile 2014, che è stata in base al recepimento della legge nazionale della regione, perché come sapete dal 1992 l'amianto ormai è fuori mercato, è fuori legge, per cui bisogna comunque sia sciogliere l'amianto da tutti i siti. Ora, questo piano nasce perché la regione non poteva censire tutti i siti, si appoggiava ai comuni, per cui questo è il primo obiettivo di questo piano, è la mappatura di tutti i siti contenenti amianto o materiale con amianto presente nel territorio regionale. Ci ha dato delle linee guida la regione, che sono delle linee guida, e praticamente ci ha detto questo è il piano, sono molto dettagliate per categorie di ricerca e per classi di priorità. Classi di priorità nel senso che in base ai siti che noi ci inseriremo ci sono determinate classi di priorità, sono 5, dalla prima che è la più grave fino alla quinta che è quella che è meno attenzionata. Per cui il nostro obiettivo è questo, di censire tutti i siti. E come si opererà? Si opererà spedendo una scheda di auto notifiche, di autodenuncia a tutte le famiglie, a tutti gli edifici pubblici, diciamo, attività produttive, dove indicheranno se hanno materiale di intagliato tipo serbatoi, oppure non hanno niente. Dopodiché, quando avremo tutti i dati, verranno trasmessi all'ARPA, che è competente per questo, e quando la regione avranno tutti i comuni avranno ultimato questo censimento, la Regione manderà un bando in cui programmerà dei contributi per ogni singolo comune in modo tale da promuovere interventi di bonifica. Questo, diciamo, sono i principali obiettivi, per cui è chiaro, se non si opera così non riusciremo mai a conoscere l'effettivo quantitativo di amianto che c'è in ogni singolo comune. Questo è già stato, diciamo, esitato dalla Giunta, mi sono sentito anche con il responsabile dell'ufficio amianto a Palermo, dice sì, bene, è stato ora ratificato con il Consiglio Comunale. Grazie commissario, visto che è stato anche oggetto di studio da parte della terza commissione, e presiedeva la commissione la consigliere Interlani. Allora sì, è stata detto in commissione, in pratica abbiamo analizzato per il piano, abbiamo visto che è conforme alla direttiva, però ci siamo accorti che il piano in pratica si ferma al primo obiettivo che è quello di censimento. Quindi in pratica abbiamo deciso di aggiungere prefazione di quello che appunto il piano in questo momento si ferma al primo obiettivo, ma è un piano utile e quindi sarà aggiornato di volta in volta secondo le direttive della Regione. Grazie Presidente. È stato un parere favorevole per l'unanimità? No. Sì. No. No, scusi. Presidente. No, è più il parere. Il parere che io mi ricordo era favorevole con un'unanimità della città. No, Presidente, scusi. Il Presidente. E si riserva e si riserva da il consigliere di Cipro, Paolo di Bellarda, a la maggioranza della commissione ha dato parere favorevole. Posso, Presidente? Prego. Il problema è abbastanza chiaro. Come ha detto giustamente il responsabile della protezione civile, è solamente una ratifica al Consiglio Comunale, già il piano praticamente è stato inviato, quindi non ho capito, già il piano è stato inviato, giusto? Bene, bene, quindi bene. Scusi, Presidente, mi vuole illustrare che sono per ignoranza. Cosa significa praticamente viene ratificato in Consiglio Comunale? Come vuole essere spiegato che cosa? Cosa significa ratificato in Consiglio Comunale? È un'espressione che ha usato allora, significa che è oggetto di studio anche dopo che è passato dalla giunta, dal sindaco, dell'assessore che l'ha visitato, deve essere visitato anche dal Consiglio Comunale. Mi scuso un attimo, gli atti sono in depositati in segreteria e tutti i consiglieri devono andare a studiare. Oppure devono passare anche dalla commissione, sono passati, significa che c'è stato uno studio di 5 consiglieri per rendere più veloce poi il Consiglio. Quello che si deve discutere, ratificare, è stato un termine detto dal commissario, ma parlando a braccio, intendevano dire che il commissario deve essere visitato anche dal Consiglio Comunale dopo il centro di studio. Ecco, sono stato... Presidente, chiaro? No, grazie. Io mi sono fermato solamente a quello, ratificato dal Consiglio Comunale. Perché io praticamente ho dissentito su quello che il responsabile della protezione civile ha portato praticamente in commissione. Perché andando praticamente a rileggere le varie circolari emanate, io ho trovato praticamente sulla circolare del 22 luglio del 2015, ed ecco perché ne volevo approfondirlo in consiglio, che praticamente tutti i comuni che inviavano praticamente il piano dopo la scadenza, e la scadenza viene individuata in tre passaggi, perché la prima praticamente è quella là del maggio 2015, poi abbiamo praticamente una proroga a luglio del 2015, poi un'altra proroga praticamente a novembre del 2015. Poi il mio campanello d'allarme dov'è che squilla? Squilla perché trovo praticamente questa dizione: i piani trasmessi dopo la data praticamente del 15 novembre verranno praticamente avranno una riduzione delle risorse assegnate del 40%. Allora la cosa mi è sembrata un pochettino poco chiara, perché se c'è praticamente questo vincolo, quindi la riduzione del budget assegnato, è vero che per ora non è stabilito l'importo del budget assegnato, ma la regione si riserva di farlo successivamente, dopo che ha praticamente il piano della mappatura. Quindi cosa succede? Che il comune di Palazzolo, che l'ha inviato praticamente, che invierà ancora il piano, quindi oltre la data del novembre entrerà in questa riduzione del 40%? E chiedo questo. Rispondo. Ed era la domanda che ho fatto anche in commissione, a cui non ho avuto praticamente la risposta. Ecco perché ho detto ne voglio praticamente discutere e dibattere in consiglio. Vediamo se lo possiamo vedere. Prego. No, rispondo. È chiaro che tutto il lavoro fatto con il supporto dell'ufficiale della presidenza della regione siciliana. E lui dice, parla di molti punti, ma in questo momento la regione Sicilia è ferma, non ha messo nessun bando. Tutti i comuni sono nelle stesse nostre situazioni, piani approvati dalla giunta e portati al Consiglio Comunale. Io ho parlato con di Prazzi, che è responsabile dell'ufficio amianto, quindi la deputazione per sé, e sono purtroppo nella circolare, però come ben lei sa, che poi proroga a proposito la circolare non mi parla, la circolare a questi due, questo semplice. No, no. Se puoi parlare di legge, perché nella legge ci sono i vari modi. No. Fa praticamente tutta questa praticamente elenco di leggi. Lei sta parlando di rendicontazione. La rendicontazione non la possiamo fare ora perché ancora non abbiamo recensito nessun sito. Scusi. Ce l'ho qui. Responsabile della protezione civile. Non dice praticamente questo. Qua è chiaro. Ma dire, la lega, sta cercando però un po' di me. Io l'ho detto questo. Cioè, non risponde al consiglio con il consiglio. Perché qui dice, il piano generale che in 30 giorni la nozione è trasmessa all'ufficiale. I comuni provvederanno a rendicontare annualmente sul tutto ufficio risultato conseguito. E questo qua è successivo. Siamo ancora. Comandante Carciolo, questo è successivo. Io mi sono fermato solo praticamente a questa situazione. La legge è chiara, dice scaduto il 7 agosto. Non parla di data. E allora io, scusi, e allora io da dove viene questa situazione? No, la legge è quella, e ce l'ho qua davanti. E dice scaduto il termine del 7 maggio, trascorsi 120 giorni, 7 agosto. Va bene, trascorsi gli ulteriori praticamente 60 giorni dalla data delle cose, i comuni avranno una riduzione, va bene, non inferiore al 40%. Ma ancora non possiamo avere una riduzione se non Madonna mia. Presidente, non la faccio io la riduzione, la sta facendo praticamente una legge della regione siciliana. Quindi se lei vuole praticamente dibattere la legge della regione siciliana, dibatta praticamente col dipartimento di prevenzione. Se lei vuole deve fare delle osservazioni, più che all'ente comune, deve fare all'ufficio regionale. No, carissimo, io le osservazioni le faccio a lei che ha stilato il piano, va bene, e le sto facendo in consiglio comunale. E quindi le risposte le voglio da lei che ha stilato il piano, o se no praticamente dal presidente della commissione che ha giustamente avuto il piano sul tavolo. Non lo posso sapere io. Abbiamo capito qual è la sua. Prego, ha chiesto la parola al consigliere Francesco. Sì, grazie Presidente. Intanto volevo chiedere una cosa. Mi è arrivata la richiesta del signor Guerriero di intervenire alla fine del Consiglio. So che dopo probabilmente non ci sarà tempo. C'è la relazione senza sì, il sì. Prossimo Consiglio. Dunque, no, io ma l'ho detto perché c'è la relazione sì, che so, immagino sarà lo so che ha proposta quando tu dici sarò breve. Volevo dire l'occasione perché volevo riprendere una cosa. Voi lo sapete che intorno all'8 dicembre dell'anno scorso è stata segnalata la presenza di amianto nelle famose contrade che ho già portato all'attenzione di questo consiglio. Lo sapete che poi dopo questa segnalazione, che è stata molto insistente perché nessuno voleva fare qualcosa subito, questi rifiuti sono stati eliminati, diciamo, alla buona, e parliamo di amianto, amianto eliminato alla buona, quindi lasciando i frammenti a terra. Per caso qualcuno se l'è chiesto da dove vengono questi rifiuti? Qualcuno l'ha verificato? Perché quando si tratta di rifiuti, soprattutto quelli che vengono da fonti edili, non è che vengono da qualche cantiere. E allora vuol dire che c'è qualche cantiere di cui non sappiamo l'esistenza, quindi vuol dire che quando mi dite che il sistema antiabusivo funziona non è vero. E allora vuol dire che il controllo sull'amianto lo faremo allo stesso modo come abbiamo fatto quello sull'abusivismo. Volevo solo porvi questi interrogativi perché me l'ha stimolata anche questa discussione, grazie. Grazie consigliere Francesco. Ha chiesto allora prima di fare la dichiarazione di voto lascio la parola al sindaco, ha chiesto la parola. Prego, sindaco. Grazie, signor Presidente. Volevo un attimo chiarire un po' il discorso del punto di discussione. Il piano che è stato attuato a questo scaturisce dal diritto internet della regione, non scaturisce dalla fantasia del responsabile della protezione civile, dalla fantasia un pochino dell'amministrazione. Questo piano, sostanzialmente, alla base come filosofia, è quello della segnalazione che dovrà portare i cittadini. Infatti a seguito del piano ci sarà bisogno di e il piano è impostato in questi termini, prevede la segnalazione dei cittadini per arrivare un attimo a tutto che mi facciamo questo tempo sì. E questa è la filosofia dell'ufficio regionale costituito presso il Dipartimento di Protezione Civile, perché in questo momento va messo così. Che poi dopo ci sarà una fase, diciamo, di indagine, di fase repressiva, è una cosa che non dovrebbe farlo dopo, ma che ad oggi non viene fatto in maniera. Questa è una cosa che ve la voglio dire, perché questo è questo momento, quello che è la linea dettata dalla parte dell'ufficio. Quindi qualsiasi altro ragionamento che questa sera stiamo facendo della riduzione, della non riduzione, sono ragionamenti in base alla data che ancora da quello che il legislatore regionale neanche ha posto, o per meglio dire sono inserite nella norma, ma l'ufficio in base alla direttiva della giunta regionale ha avuto un mandato di muoversi in un certo modo. E quindi ad oggi non vi aspettate che è approvato il piano, ha fatto l'avviso, ci sia nell'indagine, nel tappello, perché ci sarà questa fase. E lo voglio dire, lo voglio sottolineare, perché non voglio che poi da qui ho messo nel gioco si può anche fare, si tirano fuori, ah, non è stata fatta l'indagine, perché in questo momento non è la filosofia dell'indagine, non è sostanzialmente dell'azione repressiva. E questa è la prima mappatura che deve servire a evidenziare il problema a livello regionale e che molto probabilmente servirà a livello regionale per poter capire come potete poi intervenire con quelle che sono le forme di autoincentivazione allo smaltimento legittimo e regolare delle cemento amianto, perché anche di questo dobbiamo prendere coscienza. Noi non siamo un sito in cui c'è l'amianto, sì che si blister, c'è il cemento amianto nelle strutture private e nelle strutture pubbliche. E il cemento amianto, fino a quando sostanzialmente è legato e non si spopera, non è né tossico per la salute. Tanto è vero che quelli che sono i trattamenti di bonifica non si fanno soltanto smontando i detti o eliminando i serbatoi in cemento amianto e inertizzando per portare il scarico. Ci sono anche i trattamenti in situ, dove si interviene con un prodotto specifico che alla fine non l'ha inventato il sito e non l'hanno inventato gli altri, per sostanzialmente evitare quelle che possono essere le emissioni di particelle di amianto da parte di quelle che sono sostanzialmente le internet dove ce n'è questo cementamento. Quindi siamo attenti a non alimentare quelle che possono essere preoccupazioni. Perché ripeto, noi non siamo tra i siti in cui c'è l'amianto. Siamo come tutti i residenti nelle realtà di questa regione, di questa Italia, di questa Europa, perché l'Eternit è stata venduta in tutta Europa, io non lo so in tanti commenti, ma l'Eternit è stata venduta in tutta Europa, in cui esistono leghe di cemento amianto che esistono sia per la copertura e sia per il salvatore. Questa è la filosofia che è stata chiarita a noi, ma non è stata chiarita a noi, è stata chiarita anche agli altri amministratori, anche agli altri uffici comunali. E fino a questo momento sostanzialmente ci stiamo aderendo a questo. Ma perché? No, perché è una scelta dell'amministrazione, perché ci sono le linee guida e alle linee guida ci stiamo aderendo. Detto questo, io chiaramente voglio ringraziare i responsabili della Protezione Civile, perché mi avrebbero potuto dire facciamolo fare all'ufficio tecnico, invece si è prodigato proprio nel ruolo, perché all'interno del Dipartimento Protezione Civile, e insieme all'ufficio tecnico sostanzialmente con quella che sarà la collaborazione che chiaramente deve esserci da parte dell'area tecnica, sia del settore urbanistico che del settore pubblico, si inizierà quello che è la costruzione di questo piano partendo da quelle che sono le autosegnalazioni, le autodenunce, con i modelli che sono stati prodotti da parte della regione. Non ci stiamo inventando nulla, non stiamo né inventando e né sottraendo nulla a quelle che sono le linee guida. Grazie sindaco, ho chiesto la parola al consigliere di questo progetto. Io voglio esprimere il nostro voto come gruppo. L'adozione del piano comunale, siamo favorevoli all'adozione del piano comunale amianto perché è un momento di sintesi di lavoro di mappatura, analisi, studio su tale tema e perché si incastra nel quadro normativo di Udine, completando la conoscenza e il rischio sia per le istituzioni ambienti di lavoro sia della vita quotidiana mediante azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione. Ringrazio il direttore Scopo, il responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile e il commissario della regione. Grazie, consigliere Girasole. Non ci sono altri commenti. Passiamo alla votazione. Votiamo. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario si alza. Non ci asteniamo. Astenuti? Astenuti, allora faccio l'astenuto. Presenti? No, a 14. Ah, anche il consiglio, se non si può. Con nessuno. Votiamo l'immediata esclusività, che è d'accordo resti seduto, che è contrario si alza. Astenuti passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è la presentazione dell'associazione annuale del sindaco. Come sappiamo questa sera il sindaco spiegherà l'associazione annuale, poi si contro deduzione alla sarà nel prossimo consiglio. Ma se sarà breve, non so se si poteva. Quando il sindaco dice sarà breve, No, il consiglio quando sarà? Il consiglio a breve? Ma ora io già volevo dire la mia idea martedì, già il capigruppo, la conferenza di capigruppo, e decideremo anche il prossimo. Anche perché se è troppo vicino, magari non sta avendo modo di poter leggere. No, decideremo la conferenza di capigruppo. Signor Sindaco, lascio la parola per la direzione. Chiaramente ho preso il segno che sarà un intervento breve, perché come tale è breve ne sarà. Quindi è chiaro che per quelli che sono i dettagli rimando alla lettura della relazione, che nonostante le buone proposte di stringere di diminuire le pagine, alla fine è venuto di nuovo la pagina, 10 pagine, non è una possibilità di pagina di fronte a quello che è il contenuto, la sostanza di che c'è. Io è chiaro che ho posto l'attenzione e su questo mi chiedo sostanzialmente di andare a leggere su quella che è la situazione di bilancio e finanziario del mese. Questa cosa la voglio una sottolineata che è alla base di questa tripolazione del 2015, perché il 2015 alla fine è stato un anno tripolato. E a mio avviso, e lo dico con convinzione, perché questa cosa l'ho detta anche in sede di riunione dei sindaci, non emergono in maniera chiara da quelle che sono le posizioni fino ad oggi denunce sia dal governo nazionale che sia dal governo della regione. Per questo un passaggio lo voglio riservare da queste vicende, per poi in maniera estremamente rapida accennare a quelle che sono i lavori delle scuole e lasciare a ognuno di voi la lettura della relazione in quelle che sono gli altri. Dal punto di vista economico-finanziario, perché alla fine ognuno di noi, al di là dei ruoli che riversiamo nel vice, nel sindaco, assessore, nel consigliere, dobbiamo sapere dove saranno le cose. Se poi dopo alla fine uno li vuole raccontare diversamente, lo può anche fare. Però di fatto, quelle cose che ho scritto, che sto dicendo, le potete andare a riscontrare. E quando dico che non è nemmeno in maniera chiara che dal 1 gennaio 2015 lo Stato ha tagliato i trasferimenti ai comuni, non è una fantasia del sindaco, non è una giustificazione del sindaco, è la vera realtà. Quando dicono che lo stesso Stato, nonostante aver tagliato i trasferimenti, alla fine opera una trattenuta su quella che è l'IMU e la tassa, pari al 38,23%. È la mala realtà e la opera in maniera scientifica, perché in queste tasse lì versiamo all'agenzia delle entrate con il modello F24 F23 e alla fine su quei versamenti opera subito alla fonte la trattenuta e gradualmente restituisce le risorse nei comuni. Questa è la mala realtà e ne dobbiamo prendere atto, perché è così. Quando dico, e lo vedete scritto in maniera da semplice, spero che sia stato abbastanza chiaro, che la regione ha ripartito il fondo delle autonomie locali solo alla fine dell'anno, è l'altra mala realtà. E nella ripartizione del fondo sostanzialmente ha operato dei tagli che prima non erano evidenziati e che non è stato detto, è l'altra mala realtà. E quando dico che la regione nel 2015 ha trasferito solo un acconto sulla prima trimestralità, è l'altra mala realtà. E lì ho fatto un passaggio nella relazione che vi invito a leggere, perché qualcuno chiaramente si pone il problema e dire: ma allora come stanno andando avanti? E l'ho scritto, perché non ho vergogna di scriverlo, perché questa è la mala realtà che stiamo subendo tutti i comuni. Stiamo andando avanti con quelle che sono le emissioni delle bollette puntuali, ma ancora più sull'ampliamento dell'anticipazione di tesoreria in 5/12 significa un ulteriore indebitamento autorizzato dallo Stato per consentire ai comuni di andare avanti e poter quantomeno ne pagare un minimo di stipendi con puntualità e un minimo di fornitore di beni e servizi. Questa cosa non mi stancherò di dirla e vi assicuro che il rotolo emergerà in tutta la sua drammaticità, perché quelle che sono le situazioni dei comuni piano piano stanno emergendo, compresa l'impossibilità per alcuni comuni di approvare il bilancio oggi a livello regionale, oggi 8 gennaio, buona parte dei comuni siciliani e la mala realtà non hanno approvato il bilancio previsionale. Non hanno approvato il bilancio previsionale, sia perché si sono realmente verificate queste cose che vi ho detto, questa è anche la conferma di quello che vi sto dicendo, e sia perché alla fine la regione siciliana, nonostante aveva scritto nella propria finanziaria che in Sicilia non si applicava la contabilità autorizzata, alla fine, all'ultimo, ha dovuto cedere la pressione del governo nazionale e fare applicare la contabilità armonizzata. Che cosa significa? Significa che quelli che sono in danni e in ritardo si sono introdotte delle regole che si traducono semplicemente in taglio della spesa corrente dei comuni. Taglio della spesa corrente, in un momento di recessione si taglia la spesa corrente, questa è una cosa sostanzialmente che io con quel poco di economia che ho studiato non riesco a comprendere, ma a questo sostanzialmente siamo stati portati e lo saremo ancora di più nel 2016, perché il fondo di garanzia per i crediti di dubbia esigibilità non è altro che un accantonamento di somme che significa bloccare per quella che è la spesa. Potete fare tutte le pantomime, i gesti che volete, ma vi assicuro che potete trovare riscontro di tutte queste cose nell'ambito degli atti di contabilità, per cui alla fine sostanzialmente ognuno può decidere e fare e pensare di quello che vuole. Che cosa abbiamo fatto nel 2015? Abbiamo lavorato con quelle cose che erano state già prese negli anni precedenti e che purtroppo per tutta una serie di ritardi abbiamo potuto concretizzare solo nel 2015 e in questo caso lo dovevamo concretizzare perché c'era quella tagliola del 31 dicembre 2015 nella spesa di fondi comunitari. E qui è solo il passaggio che faccio. Le strumentalizzazioni, le prese di posizione su quello che stava succedendo nelle scuole. Nelle scuole, prendiamone atto tutte, abbiamo fatto gli interventi che si dovevano fare, in due li dobbiamo completare, ma abbiamo fatto gli interventi che dovevamo fare. Altre realtà municipali hanno purtroppo restituito i finanziamenti. Noi abbiamo speso quello che ci hanno assegnato e lo abbiamo speso perché i nostri edifici ne avevano bisogno, lo abbiamo speso perché sono stati fatti sacrifici da parte degli uffici, da parte dei responsabili di settore, da parte dei dipendenti comunali, e bene ne sottolineiamo. L'abbiamo speso perché c'è stata proprio una sinergia con quelli che sono i due dirigenti scolastici, che alla fine nel loro ruolo, anche questo molto improvvisato che gli è